qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Ma io che non vivo più di un'ora senza te, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita